La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. In questi giorni, come regalo di Pasqua, Radio 24, con i suoi potenti mezzi, mi ha fatto vedere Habemus Papam, il film di Nanni Moretti, una proiezione organizzata qui, al Faro, per me e i gabbiani, che tra l'altro, come compagni di visione, hanno il pregio che non commentano, anche se non sono proprio un pubblico disciplinato, perché fanno chiasso. Continuamente. Io mi aspettavo da questo film tutta un'altra cosa. L'ultimo film di Moretti era stato Il Caimano, una satira durissima e profetica. Non so se ricordate quando nel finale il Caimano dà fuoco al tribunale per non essere processato. E sembra un presagio simbolico di ciò che sta accadendo questi giorni. Basta pensare ai manifesti contro la magistratura, che sono equiparati alle Brigate Rosse, che sono l'equivalente della Molotov del Caimano. E quindi dopo questo film, io, da mangiapreti umbra come sono, col nonno anarchico, anche se era un anarchico da bar, ma tuttavia anarchico, e pregustavo la gioia maligna di chissà quali strali contro il Vaticano. Invece sono stata sopraffatta da qualcosa che non mi aspettavo. Attraverso la storia di questo cardinale, Michel Piccoli, che viene eletto papa e invece scappa per la città e poi alla fine rinuncia, abbandona il soglio e si rifiuta di condurre gli altri perché è smarrito, perché non sa cosa fare e perché, come lui stesso dice, avrebbe lui bisogno di essere condotto. In questo film i preti non sono i cupi e minacciosi preti di Goya, ma sono, Moretti ha raffigurato, i pretini di Nino Caffè. Non so se qualcuno ricorda questo pittore di origine abruzzese che tutta la sua vita ha dipinto dei pretini suavissimi. Erano dei pretini che giocavano a palla, come nel film, la partita di pallavolo. E i pretini di Caffè giocavano a palla, roteavano gli ombrelli, arrivavano saltando come stormi di uccelli, oppure venivano via portati dal vento. E questo vento faceva volare le pagine dei messali. Erano dei pretini rossi, neri, bianchi, dei pretini danzanti. I pretini di Moretti sono innocenti come è innocente questo papa. Stavolta Moretti ha fatto molto più della satira. In questo film Moretti ha fatto un sogno e ha sognato che invece di essere parte di una multinazionale, le alte gerarchie ecclesiastiche siano dei puri di spirito, delle creature evangeliche, dei cardinali giocondi come i compagni di San Francesco nei fioretti. Cambia lo superficiale, cambia también lo profundo. Cambia il modo di pensare, cambia tutto in este mondo. Questo papa si chiama Melville, ma io credo che il regista si riferisca soprattutto a un suo personaggio, Bartleby. Se andate a rileggervi il racconto Bartleby, lo scrivano di Melville, ci ritroverete Michel Piccoli nella parte del papa fuggitivo, perché Bartleby dice sempre preferisco di no. E il personaggio di Melville è arrivato a questo dopo essersi occupato come impiegato postale delle lettere smarrite. Si è ridotto a preferire di no a forza di maneggiare quelle carte morte, come il Vangelo e una lettera smarrita che ha sbagliato indirizzo, quando quelli che lo brandiscono, invece di essere i più poveri in suo nome, sono fra i più ricchi. E poi in questo sogno c'è un personaggio reale, perché il Papa Piccoli somiglia moltissimo, Papa Melville somiglia moltissimo a Papa Luciani. C'è stato veramente un uomo così nella Chiesa, anche se purtroppo per pochi giorni, perché è morto subito. È morto subito dopo che aveva in un discorso pubblico messo in dubbio la ricchezza del Vaticano, la legittimità della ricchezza del Vaticano e la sua inconciliabilità col Vangelo. Un'opera di poesia, secondo me, si riconosce da questo, dalle infinite letture che se ne possono fare, che sia un libro, che sia un film. Quando la si vede o la si legge, l'opera si moltiplica. E quindi c'è un Moby Dick, un Habemus Papam per ogni lettore o spettatore che riuscirà ad avere. Non sto paragonando il film di Moretti al libro di Melville, è un esempio. Ognuno rigira e riscrive il film che vede. Questa è la mia lettura. E mi sono ritrovata moltissimo anche nella lettura che ne ha fatto Luca Telese sul Fatto Quotidiano, il quale dice che quel Papa siamo noi, quel Papa smarrito, che ha il senso della responsabilità tanto da rifiutarla, perché sa di non poterla reggere. Alla fine non solo hai visto un bel film, ma a questo Papa gli vuoi bene, te lo porti dietro. Per noi orgogliosi è veramente un balsamo la sua mitezza. Devo dire per finire che non sono una fanatica di Moretti, ma la bellezza la riconosco. Tutti riconosciamo la bellezza, perché dopo, se un'opera ti è piaciuta, dopo sei più bello. E io sono così grata quando un'opera è bella, è riuscita, quando ti si spalanca una porticina che non avevi visto prima. È come cadere nel buco di Alice. Cadi giù e tutto si rovescia. Adesso leggo la lettura di Luca Telese. Parla della capacità del film di tenere insieme con una leggerezza rara un sentimento molto tragico e una sceneggiatura molto comica. La chiave del film è tutta in questo meraviglioso contrappunto tra sacro e profano, tra il dramma dei tempi cupi che trasforma Padre Melville in un novello Celestino V, quello che troviamo in Dante che fece il gran rifiuto, in un obiettore che non vuole ascendere al soglio perché il compito è immane. E questi cardinali bontemponi non sono certo un'offesa alla Chiesa, ma un affresco caldissimo e persino molto rispettoso. Il disagio di questo umanissimo, simpaticissimo e genialmente trasgressivo Papa Piccoli è davvero una metafora adatta ai tempi e anche il nostro disagio. Nanni ha fatto vincere questo Papa in conclave e poi l'ha trasformato in un novello marziano che cerca risposte e libertà per le strade di Roma, guidato dalla voce incantata di Mercedes Sosa. Cambia il rumbo il camminante, anche sto le calze d'aglio. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Papa Melville ci assomiglia, ma ci assomigliano anche quei cardinali creduli che si fermano incantati ad ammirare le ombre sulle tende degli appartamenti del pontefice. Quella finzione inscenata per coprire la fuga del novello pontefice è un inganno, ovviamente, come un inganno questa Italia di veline propagandistiche e questa Europa di manipolazioni belliche. È invece un'iniezione di libertà, l'avventura metateatrale cecofiana di Padre Melville. È un viaggio catartico per tutti, la sua terapia. Nanni ci ha fatto un regalo, perché Papa Melville siamo noi. Difficile immaginare un'operazione meno sacrilega, impiantare la tormentata anima della sinistra su una bianca tonaca pontificale. Cambia todo cambia. La guardiana del faro. Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici! Oggi è Pasqua, è la festa delle grandi mangiate, delle abbuffate di abbacchio, di cioccolata, di torta al formaggio. E vi voglio presentare un bambino grasso. Si chiama Angelo, ha 8 anni ed è figlio di separati. Angelo è un bambino grasso perché passa la vita mangiando davanti alla TV. No, parlo io. Il ritratto me lo faccio da solo. La mia specialità sono le Polaroid. Parlo poco. Mi viene così e poi intimidisce i grandi e ti lasciano più in pace. Ma quando papà è venuto a dirmi che non mi portava in vacanza perché il lavoro e aveva scritto in fronte perché invece andava con quell'altra famiglia, io zitto. Ma avevo ancora 2 scatti in macchina e glieli ho sparati sul muso col flash. Poi gli ho dato le foto e lui si è potuto vedere che faccia ha quando dice una bugia. Il mio ritratto. Ho 8 anni. E sono un bambino grasso perché passo la vita mangiando davanti alla TV. Nessuno si occupa di me. così faccio quel che mi pare, che stare lì davanti a cambiare i canali. Ma se per una volta, invece della Polaroid, mi volessi ritrarre alla grande, come nei quadri dei signori fiamminghi, che in un'immagine sola consegnavano per sempre ogni loro cara abitudine a quelli che verranno, eccomi, immobile dietro il gran tavolo della cucina, una mano dentro la Nutella, l'altra al telecomando. Il quadro non basta, ci vuole il video. Così si può vedere la cosa più bella del ritratto, la mia faccia che cambia continuamente colore a seconda del programma, in quel momento. La mamma di Angelo ha 41 anni. Sembra più giovane, però ci sono, e sono tanti, se dopo le speranze di diventare una grande attrice devi ancora correre da un teatrino all'altro per qualche particina insignificante. Dopo Muscardini per me, sì per me, no per lei davvero che lei proprio non può. Ecco, quello che sto leggendo tratto da un mio romanzo che si chiama Buonanotte Angelo ed è stato ripubblicato adesso dalla Castelvecchi. In copertina c'è un televisore rosso, un po' di Foggia anni 80, perché la storia si svolge nel 1986, quando i telefoni avevano ancora il filo. E in questa, in copertina, dentro il televisore, c'è un orco terribile, ed è l'orco di Pollicino che sta sgozzando le sue bambine. È la impressionante illustrazione del Dorè per le fiabe di Perrol. È un libro che mi è molto caro. L'ispirazione mi era venuta da quel terribile evento quando il bambino Alfredino cade nel pozzo e si creò immediatamente un tale evento mediatico che protagonista diventarono i media. Fu il primissimo crudelissimo reality in cui il bambino morirà poi, forse perché raccontare l'evento era diventato più importante che salvarlo. In questo libro invece, in Buonanotte Angelo, il bambino verrà rapito. Un'altra ispirazione che mi è stata data perché all'epoca mio figlio, il mio bambino che aveva 8 anni, era grasso. E l'ispirazione di fondo è perché noi mamme siamo sempre piene di rimorsi. E nel mio caso credo che avevo ragione ad averne. Qui la mamma di Angelo racconta la nascita di Angelo. Angelo è nato troppo tardi, quando ormai avevamo altro da fare e stavamo quasi sul punto di separarci. Lo abbiamo aspettato 10 anni e anche per questo è finita la storia con suo padre. Tutti quelli che mi hanno messo le dita dentro. Va bene, medici, ma se il tuo uomo è un uomo, non ti fa rovistare dal primo venuto. Se uno è un uomo, il figlio te lo fa fare. Se no si compra, si affitta, si dimentica. Ma non cerca di farti aggiustare ogni momento come un giocattolo difettoso. Io alla fine proprio me ne strafregavo di avere un figlio. Otto, mio marito, lo amavo. Figlio o non figlio, non ci siamo mai annoiati. Perché quella smania di estorcere al mio corpo qualcosa che non voleva dare? Poi, quando due fanno l'amore, se si vogliono bene, sperano di fare un figlio. Perfino se sono due maschi o due donne, se l'atto è proprio sentito, il figlio è lì, sono loro e la loro unione, che in quell'attimo sfiora la perfezione delle cose create. Col tempo, a forza di torture e interrogatori, mi sentivo uno sgomento da salvadanaio vuoto, un senso di incompiutezza, e mi grattavo, proprio lì, per forza. Un po' come una scimmia, anche sul pensiero, anche davanti a tutti. E Otto si arrabbiava. Ma come non grattarsi? Quando l'unico argomento era mestruazioni, perdite, spermatozoi, ovuli, trombe di Falloppio. E alla fine, quando il desiderio diventa un troppo scoperto trucco per la riproduzione, io col tempo manco mi piaceva più. E addio baci, addio scherzi prima di farlo. Otto poi, per forza, si è innamorato di quell'altra. Mi figuro che gioia per lui, che vertigine. La prima volta che è andato con lei senza il problema di fare centro, diceva proprio così. Anzi, il batticuore. Poi, quando tutto era andato ormai all'aria e la connotazione ginecologica ci aveva resi repugnanti a vicenda, lui si innamora della Gioconda. La sera che me lo dice, commozione, ricordi, decidiamo di lasciarci e, come logico nel bel mezzo si fa l'amore, ta, centro, rimango incinta. E quando ti arriva all'improvviso quello che hai tanto desiderato, ci metti un po' a capire che non lo desideri più. Angelo nacque senza pubblico. Angelo nacque come quasi tutti gli uomini, senza un posto come persona, groviglio di proiezioni, d'altri sentimenti, d'altri luoghi, d'altri. Io vedevo in lui l'immagine di Otto. Otto la mia. E Angelo? Un pretesto. Un ricatto. Un rimpianto. Venne su come il cane di due padroni, che non viene troppo da trattarlo bene, perché ti sembra che ci guadagni l'altro. Venne su nel disamore delle cose possedute a mezzo. Come ho potuto io, che mi commuovo di tutti, generosa col primo che passa, trascurare mio figlio? Come posso io, che sento tutti i dolori di Angelo, non far nulla per lenirli? Forse perché sono troppo occupata con la mia infanzia per tollerare la sua. Lo sento dietro la porta e ogni giorno mi dico: lo amerò domani. Purtroppo non ci sarà tempo, ma questo un'altra volta. Senza un poco di allegria, quella dopo a casa mia, quella dopo a casa mia. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Non gli ho mai chiesto niente oltre i nostri appuntamenti clandestini. A me andava bene così. Un grande incontro di sesso circa due volte alla settimana. Non facevo in tempo a entrare che mi spogliava, e spesso persino in piedi contro il muro prima di arrivare a letto. D'un tratto non mi vuole più. Sua moglie si è accorta e lui... Non sono innamorata. Sono dipendente dal suo modo di fare l'amore. Ho goduto solo con lui. Come riprenderlo? Ex felice. Beh, certo, è una privazione molto dura, perché con l'amore si delira, si è compatiti, magari se ne trova un altro. Ma la mancanza fisica è tremenda, è spasimo, è malattia corporea e non c'è rimedio. Per adesso. Come riprenderlo? L'unica speranza, guarda, non c'è nessun consiglio che ti possa soccorrere in questo, però sulla carta, diciamo, l'unica speranza è non fare niente e contare sulla nostalgia che anche lui proverà. L'intesa sessuale non è mai unilaterale. L'intesa sessuale mica può essere da una parte sola, e lui che adesso ha fatto tanti buoni proponimenti può darsi che sia meno forte di quel che crede. Ma non perseguitarlo, o gli darai una ragione per resistere, mentre così può darsi che la tentazione vinca. Sai, vince quasi sempre. Sono innamorata pazza. In 32 anni di vita non ho mai avuto un legame vero perché aspettavo l'assoluto. Beh, mi sa che ci sono arrivata. E allora cos'è che non va? Che lui è un mistero. Non so che lavoro fa, dove abita veramente. Si fa vivo lui. Certe volte due, tre giorni di seguito viene a stare da me. E se no sparisce per lunghi periodi, durante i quali mi prega di dimenticarlo. E così ogni volta che lo rivedo mi pare un miracolo. Certo, sono sospettosa e preoccupata. È un ladro? È una spia? È un bugiardo? Magari ha famiglia? E non me lo dice? A parte queste ansie, quando sto con lui la vita è un'altra cosa. E il sesso, che prima di incontrarlo era un tentativo, con lui è caldissimo. E appena arriva è la prima cosa che facciamo. Dopo mi racconta del suo lavoro, ma in termini così vaghi che aumenta la mia diffidenza. Devo insistere per sapere chi è lui? Ma lui sembra così sereno. Mentre sta da me, arrivano strane telefonate alle quali mi sembra che risponda in codice. Faccio bene a fare il suo gioco? O dovrei inchiodarlo a una spiegazione? A.S. Ma senti, A.S., come ti firmi? Tu non vedi l'ora di scoprire le peggio cose, come dicono a Roma, su questo individuo? Tu speri che sia veramente un malvivente per poterti unire a lui? E dalle tue righe proprio straripa un gran desiderio, una grande propensione alla complicità criminale. Tu non vedi l'ora che lui tiri fuori la pistola e ti dica: facciamo Bonnie and Clyde insieme? Mi fa ridere un'altra cosa nella tua lettera, che le tue ipotesi sono ladro, truffatore, spia, e accanto a queste definizioni delittuose ne affianchi un'altra che metti alla pari con questa ipotesi: sposato. Per te sposato è uguale. Tutta la tua lettera dice: qualsiasi strada tu percorra, io voglio farla con te. Attenta, potresti scoprire che è soltanto un impiegato sposato, e questo davvero sarebbe difficile da per... La guardiana del faro. Carmelo Musumeci, detenuto scrittore. L'ho conosciuto perché Mi hanno chiesto di fare da tutor al suo racconto in un premio per detenuti scrittori che si chiama Premio Goliarda Sapienza, che mi è stato proposto da Antonella Ferrera, Elio Pecora e Nadia Bizzotto, sua grande amica. E così ho conosciuto la sua opera e un po' la sua persona, anche se da lontano. Carmelo Musumeci è condannato all'ergastolo ostativo. Il racconto in concorso si intitola Notte da ergastolano. Ed è stato leggendo questo racconto che ho davvero capito un romanzo di Jack London dal titolo Il prigioniero delle stelle, che racconta di un detenuto seviziato dai secondini e immobilizzato in una camicia di forza, che riesce a evadere senza uscire dal carcere, rivivendo le sue vite precedenti. Leggendo il racconto di Musumeci ho capito che la sua fuga è ancora più interessante, perché lui evade senza evadere dalla sua vera esistenza, ma sprofonda in se stesso. È più fortunato del personaggio di London, perché ha una grande compagna di fuga, che è la scrittura, perché Musumeci ha il dono, ha le idee, il ritmo e il linguaggio. Quando stavo lavorando alla prefazione del suo racconto, che poi è uscito da Mondadori, mi scrisse: non essere tenera, non ce n'è bisogno perché sono ancora vivo. Ho sempre paura che mi dicano che scrivo bene perché sono un detenuto. Beh, caro Carmelo, non avere paura, non c'è pericolo, perché il gastolano libero, la scrittura c'è o non c'è, e nessun elogio può fingerla. La storia del suo racconto è la vicenda di questo detenuto, come lui, condannato a questo ergastolo ostativo, però senza speranza, dove il protagonista prende una decisione: non arriverà a giorno. E scrive: certe sere, anche se là fuori sei amato, ti senti solo e non hai altro che te stesso. Quella notte si suiciderà, è deciso. La pena di morte, scrive, è meno crudele dell'ergastolo. Mentre prepara minuziosamente l'impiccagione, intanto compone mentalmente la lettera d'addio alla moglie, ai figli, al nipotino, al cane. E poi, quando gli viene in mente il cane, si ribella con se stesso, dice: ma ci mancava anche il cane. Questa non è più una lettera d'addio, sta diventando un romanzo, perché Carmelo conosce la scienza degli addii. E poi dice a se stesso: dai, adesso sei pronto, non perdere più tempo, non ti lasciare scappare questa occasione per scappare. Meglio morto che zombie, è l'unica via di fuga che hai. Dai, da sto cazzo di calcio allo sgabello. Perché la tenerezza lo tenta, però lui ha deciso e sa bene che niente potrà trattenerlo. E invece, ancora una volta, l'amore lo trattiene. Il piacere del pensiero, lo straziante pensiero lo trattiene, con tutte le sue torture. E quindi anche quella notte non lo farà. Per questa notte preferisco vivere, mi rimetto a letto. È stata proprio una brutta nottataccia da cani, una notte d'ergastolano. Si capisce che è un rito che lo fa quasi ogni notte. Prima si dà tutte le buone ragioni per morire, poi l'amore lo riporta in vita. È un gioco, ma è un gioco vero, è un gioco che riesce sempre, perché lui gioca sul serio. Lui vuole davvero morire, sa che da un momento all'altro potrebbe farlo. Ogni volta, fino all'ultimo, non sa come andrà a finire. È una roulette russa tra due passioni opposte: continuare, chiudere. Ogni volta lui fa ruotare il tamburo della pistola, se la punta la tempia, e spara. E se finora ne è uscito illeso, è perché è un grande giocatore. Un po' gigione, ma pronto alla morte. Esattamente come De Niro, nel film Il cacciatore, scrive di sé Carmelo Musumeci: ho 55 anni, sono nato colpevole, genitori separati, collegio e botte da preti e suore, carcere da minorenne a maggiorenne. Ho sempre tifato da piccolo per i cattivi piuttosto che per i buoni, perché i cattivi mi sono sempre sembrati più veri. Ho una compagna che mi segue da 30 anni, due figli e due nipoti che sono la mia vita. Sono un uomo ombra, infatti questo libro che è uscito adesso da Gabrielli si chiama Uomini ombra. Sono un uomo ombra condannato alla pena di morte viva, che è l'ergastolo ostativo, senza nessuna possibilità di uscire se non metti un altro al posto tuo. Sono entrato in carcere con la quinta elementare. Mi sono laureato in giurisprudenza. Ora sono in tesi per la specialistica. Sono in carcere da 20 anni, ma mi sento un uomo libero. Mi girano le palle che dovrò invecchiare e morire in carcere. Anche per questo da molti anni lotto per l'abolizione dell'ergastolo ostativo. In biografia di un bambino criminale racconta del padre immigrato in Svizzera, la madre che fa avanti e indietro fra mariti e figli e la nonna che li tira su, e per potergli dare da mangiare gli insegna a rubare prima che a scrivere. Ma una volta che Carmelo viene scoperto, lo prende a schiaffi davanti a tutti. E poi lo prende a schiaffi anche in privato, perché si è fatto beccare. A 9 anni muratore, a 10 il collegio, la mia prima prigione, da cui evade. Il prete lo massacra di botte, lo chiude in uno stanzino senza acqua né cibo. Si vendicherà dandogli una sprangata in testa. Lavoro in fabbrica, poi la prima rapina, la prima prigione. In carcere lui si forma e scopre la passione politica. Studia una difesa dalla disumanizzazione, perché la condanna non è solo stare rinchiusi, ma essere in balia del sistema carcerario con tutte le sue prepotenze. E Carmelo, invece di abbrutirsi, si eleva, diventa un preparatissimo ribelle, dice di sé: non sono un comunista, sono un anarchico puro. Invece di farsi distruggere dal carcere, lui diventa. È un leader. Col suo fascino ha evocato presenze dal buio, perché il suo blog ha un grande seguito. Carmelo Musumeci ha grande personalità, uno spettacolare narcisismo e passioni titaniche, tormenti profondi. Tutto enorme, fuori di misura. Un gigantismo che si sa esprimere, un po' come Majakovskij, il poeta russo, dominatore anche quando non voleva. Questo libro che è uscito adesso con l'editore Gabrielli, Gli uomini ombra, di questo libro Margherita Hack ha fatto una recensione dove scrive: è un libro sconvolgente, opera di chi in carcere è diventato un grande scrittore. Però devo dire, la mia conoscenza della vita e delle opere di Carmelo passa attraverso Nadia Bizzotto, che è una indomabile e affascinante ragazza che ha con lo scrittore un rapporto dialettico e complementare, fortissimo. Lo segue da molti anni, si tengono testa a vicenda e deve essere una bella lotta. Vorrei chiedere alla Capitaneria di Porto se è possibile chiamare Nadia Bizzotto. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, Nadia Bizzotto è in collegamento. Ciao Barbara, sono Nadia. Oh, benvenuta Nadia. Senti, grazie. Ho appena un po' raccontato che io parlo di Carmelo Musumeci, ma per sentito dire, nel senso che conosco le sue opere e tutto quello che so di lui mi viene da te. Mi vuoi raccontare chi sei tu e come vi siete incontrati? Potrei rispondere con una battuta: ho incontrato Carmelo Musumeci in chiesa, lui che si definisce ateo, in realtà nella chiesa del carcere. Io faccio parte di una comunità, che è un'associazione del volontariato, che tra le altre cose si occupa di carcere, di detenuti. All'inizio del 2007 io ho incontrato, in un incontro collettivo con gli ergastolani di Spoleto, c'era anche Carmelo Musumeci, e lui si è presentato subito per quello che era: un leader, un tipo molto carismatico che in mezzo a tutti ha preso la parola e ci ha illustrato a noi che eravamo lì che cos'è l'ergastolo, qual è la loro condizione. È successo che io sono rimasta chiaramente colpita da questo uomo che più degli altri aveva il coraggio di esporsi. Nei mesi successivi io ho cominciato a leggere una rubrica di posta diretta che lui tiene su un sito in forma carcere, attraverso dei volontari chiaramente, dove lui manda fuori un po' tutto quello che scrive. Quando ci siamo rivisti qualche mese dopo l'incontro successivo, succede che alla fine dell'incontro io vado a salutarlo e gli dico più o meno: io ti conosco perché ho letto tutto di te. In quel "io ti conosco" c'era anche: ho letto un po' la tua anima e credo di conoscerti. Lui mi ha guardato con una faccia sgranata, due occhi, come se venissi dalla luna. E in effetti da quell'incontro in poi lui ha cominciato a scrivere, mi scrive quasi tutti i giorni. Io poi ho cominciato a entrare più spesso, diciamo, in carcere a Spoleto, e da lì insomma è nato un rapporto, una serie di colloqui con lui molto fitto e molto stretto. Lui mi considera un po' il suo angelo custode. In realtà io mi sento più un diavolo che un angelo. Perché quindi un diavolo custode? Può essere, sì. In effetti lui ogni tanto, lui si dichiara ateo, però ogni tanto mi dice: ma Dio non aveva un angelo più docile o più buono, più gentile, più carino da mandare? Per chi gli hai del filo da torcere. Sì. Mi racconti qualche vostra lite, qualche vostro scontro? Guarda, i nostri scontri sono sempre perché lui si espone troppo. Qualcuno ha definito il suo girovagare per le carceri d'Italia turismo penitenziario. Prima di arrivare a Spoleto ha girato tutte le carceri d'Italia, ogni 4-5 anni lo cambiano di posto. Perché? Perché è ingestibile, perché lui è un'anima ribelle, lui non accetta le ingiustizie, non sopporta le regole ingiuste, per cui lui affidamento di cui è fatto il sistema carcerario, perché chiaramente, poi chiaramente meno personale c'è e più sarà una storia di sopraffazioni. Cioè il carcere dovrebbe essere un posto legale, in realtà è un posto dove non vengono illegale rispettate le leggi, molte volte anche perché le condizioni non lo permettono, oltre al fatto che il carcere è un sistema che crea ingiustizie, che crea illegalità. Lui ministro Alfano aveva promesso altri 2000 nuovi agenti carcerari, naturalmente non se ne è parlato, ma neanche per ridere, ecco. Guarda, quando sono entrata io in carcere 4-5 anni fa, il rapporto degli agenti era 2 agenti ogni detenuto. Oggi io entro e c'è 2 detenuti e un agente. Praticamente si è invertito, il che vuol dire che cresce la tensione. I detenuti sono raddoppiati e le guardie sono rimaste lo stesso, anzi a Spoleto non vengono sostituite neanche quelle che vanno in pensione. Oltre a chi ci lavora, i primi che pagano sono gli detenuti stessi. E quindi niente, lui è capace che si espone e rischia grosso anche quando i benefici non sono per lui. Lui difende chiunque, lui si schiera dalla parte sempre del più debole, anche se ci deve rimettere di persona. Tu capisci che io ogni tanto lo devo bloccare. La lotta è sempre, nessuno mai è riuscito a farmi fare quello che voleva tranne tu. In realtà, secondo me, lui non mi ascolta abbastanza comunque, perché fa comunque tutto quello che gli viene da fare. Insomma, è un impulsivo, lui è un idealista, se vuoi. Tu sei citata molto spesso in quella saga che ha scritto Carmelo su Zanna Blu, su questo lupo che è un riparatorti, un po' come lui. E cos'è per te Carmelo? Carmelo è stato per me un grande insegnamento, intanto capire che c'è qualcuno che nonostante lo stato di cattività in cui vive è capace di mantenere la libertà interiore, la voglia di lottare. Lui è una persona ancora viva, cioè quando lui dice sono un uomo ombra, né morto né vivo, in realtà lui c'ha una vitalità interiore, una voglia di riscattarsi, una voglia di libertà, che è una cosa che è fuori dal Senti, comune. Ha anche un gran senso dell'umorismo, io immagino che vi divertiate anche molto insieme. Sì, lui dice, noi a volte ci guardiamo veramente, diciamo, ma siamo dei matti, nel senso che ci facciamo di quelle grasse risate in un posto dove non c'è assolutamente niente da ridere, e a volte in barba a tutto, diciamo, noi alla fine riusciamo a prenderci in giro e a strappare a quello che lui chiama l'assassino dei sogni, il carcere, a strappare anche quei momenti di serenità che altrimenti sarebbe impossibile proprio. Avete anche un po' paura l'uno dell'altro? Ti posso dire la mia, la paura di illuderlo. Illusione di cosa? Di poter essere un giorno libero, di poter riscattarsi, anche di uscire, perché no? Perché alla fine voglio dire, uno non è vero che l'uomo può vivere senza speranza, lui dentro di sé, in fondo al suo cuore, la speranza che un giorno le cose possano cambiare ce l'ha, altrimenti sarebbe difficile mettere fuori i piedi dal letto la mattina. Un po' c'è in lui questa voglia di riscatto, di poter dire mi piacerebbe nella vita che qualcuno dicesse che ho fatto qualcosa di buono. Molte volte mi dice io vorrei diventare uno scrittore perché i miei nipoti mi ricordassero come uno scrittore e non come un ergastolano. Io condivido in pieno la sua lotta, lui sa che si laurea, dovrebbe laurearsi l'11 maggio. Questo condizionale è subordinato al fatto che lui si vuole laureare fuori dal carcere, per cui se gli concederanno di andare con la scorta o magari senza in facoltà a Perugia, lui discuterà la tesi di laurea. In alternativa lui non si vuole laureare in catene in carcere. Chi volesse per caso scrivergli, vi do l'email che vi mette in contatto con lui, tutto attaccato, zannablumusumeci@libero.it. La guardiana del faro. Tempo fa vi avevo raccontato episodi dell'idiozia in famiglia che facevano parte di questa lezione tenuta a Oristano, organizzata da Filippo Martinez, corso sulla prevenzione dell'idiozia. Mi è venuta in mente un'altra storia. Nasce il mio secondo figlio e da neonato era bruttissimo. Ma no brutto normale, era brutto inquietante. Faceva impressione. Il padre, che era ed è di un razzismo estetico ributtante, infatti non ho mai capito perché abbia sposato proprio me, ma per il resto è una brava persona, quando ha visto il bambino ha detto «Beh, adesso ce lo teniamo. Non sarà colpa tua, però somiglia tutto a te». Quando veniva in clinica, mi portava sempre a vedere gli altri neonati, che erano tutti meglio del nostro. Gli piaceva uno in particolare e mi fa: «Ci pigliamo quello? Piccoli così non se ne accorge nessuno». Ma invece se ne sarebbero accorti. Quel bambino era cinese e in più era anche una femmina. «Andiamo a casa. Gli volevamo bene, però somigliava sempre di più al neonato di Rosemary's Baby, il film di Polanski, dove un attore sconosciuto per il successo vende al diavolo il bambino che sta per nascere. E infatti nascerà il diavolo. Aveva quello sguardo, no? Che faceva venire i brividi. Una sera io lo sto allattando. A un certo punto mi metto a urlare: «Corri, corri!» chiamando mio marito. «Corri!» Lui arriva tutto spaventato. «Che c'è? Che c'è?» E io: «Il bambino mi guarda». Un giorno avrà avuto 2 mesi e ci viene a trovare Franco Battiato, che all'epoca era sconosciuto, insomma spiantato, quindi ancora ci frequentava. Si china sulla culla e si mette a strepitare. «Ma è Dio!» col suo bell'accento. «Ma è Dio!» Pensiamo impazzito. Diamo un'occhiata e rimaniamo secchi. Era diventato bellissimo. Si era trasformato in una notte. In seguito, quando Battiato è diventato un guru, si è sparsa la voce in casa. Il bambino è diventato bello perché era un miracolo di Battiato. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. A casa mia non ce la faccio più. Ho una sorella che piaceva a mio marito anche prima del matrimonio. Però piaceva così, io ci scherzavo. Ma da quando ci siamo sposati, 14 mesi, e ogni domenica stiamo a pranzo tutti insieme nella casa di lei, che è più grande, lui le fa solo complimenti e fa il confronto con me. Se lei fa un dolce coi fiocchi, non si accontenta di dire «sei una cuoca meravigliosa», ma poi si rivolge a me e mi dice «hai visto, Ambra, come si fanno i dolci? Tu invece...» E per ogni cosa è lo stesso. Lei si sa truccare, lei sa scegliere i vestiti e spende poco. Forse sembra un problema piccolo. A me rovina la vita. Si parlano al telefono e lui parla affettuosamente di me, come di quella che non sa fare niente. Secondo uno scherzo che è sempre quello. E se mi scoccio, lui dice stupito: «Ma non sei spiritoso per niente. Tua sorella, invece, ha un senso dell'umorismo». Non mi devi consolare. Dimmi che cosa devo fare. Ambra. No, prima ti dico cosa mi piacerebbe vederti fare. Una scenata raccapricciante. Immaginiamo, è il solito pranzo domenicale. Sotto questi tovaglioli di bucato si arrotano le armi dei congiurati. Quella carogna di tuo marito e quella sfacciata di tua sorella stanno intrecciando il solito flirt alle tue spalle. Anzi, non alle tue spalle, a tue spese, sotto gli occhi divertiti di tutti. Oh, non c'è niente di male. Beh, sono cognato e cognata, mica si vedono in una stanza d'albergo, mica si baciano, si toccano, mica fanno l'amore. Ma la loro intesa è tra le più intime, così spudorata che non si accorge di rivelarsi. Molto meglio sarebbe se stessero buoni davanti a te e di nascosto mille coiti. Sarebbe meno malvagio e di maggiore soddisfazione. Ma no, invece questi due vigliacchi senza fantasia che fanno? Si scelgono una vittima, te. Ebbene, in questa domenica lui apre con la solita battuta, dove per fare un complimento a lei offende te. Non sa farle un elogio senza che sia contro di te. E tu che fai? Tu finora hai sempre subito. Invece d'un tratto ti prendi la inimitabile soddisfazione di rovesciare la zuppiera fumante in testa a tuo marito, coi ravioli e tutto. E tua sorella la prendi a schiaffi, le torci il naso, pure un orecchio, poi prendi la tovaglia e tiri giù tutto. Questa domenica il pranzo non si fa. Questa volta ve lo dico io cosa mi avete fatto patire. Tutti insieme, perché la colpa è anche dei parenti. Come deve essere noiosa questa eterna filastrocca. Lei sì e tu no, guarda tua sorella, fa come lei. Ma nessuno dei parenti che gli abbia detto «senti, mo hai stufato, parliamo d'altro». E poi non ti vergogni a trattare così tua moglie. E mentre hai appena fatto questo delizioso exploit e sei lì tra i cocci, le salse schizzate sui vestiti buoni e sulle pareti, mentre tutti dicono «è impazzita», tu rovesci pure il vino, lo butti dalla finestra. E canti a squarciagola una bella scena da indemoniata inquieta a quegli indemoniati tranquilli, che uccidono con lo scherzo. Questa naturalmente è una scena perdente e funziona solo al cinema. E funziona se poi hai un principe azzurro che ti aspetta sul tetto con un elicottero e via. Ma essendo meno volatili le nostre sorti quotidiane, visto che con lui ci devi stare, ma io credo comunque non a lungo, ti dico non ciò che mi piacerebbe vederti fare, ma ciò che è opportuno fare. Io al tuo posto scriverei un atto unico, breve, esilarante, intitolato Pranzo in famiglia, dove prendi pari pari, non devi inventare niente, prendi pari pari gli stucchevoli dialoghi fra marito e sorella e gli fai il verso. Poi chiedi il silenzio e lo leggi, prima o dopo pranzo. Io consiglio dopo. Li prendi in giro tutti, e li copri di ridicolo. E dopo vediamo chi è spiritoso. Ma non devi tanto faticare, riprendi proprio le loro frasi e basta. Tanto le sai a memoria ormai. E questo perché il loro comportamento è il materiale per una farsa. Però meriterebbero una punizione esemplare. Di sposarsi fra loro, marito e cognata, e ritrovarsi uno di fronte all'altra, senza di te, senza il loro giochetto. Morirebbero di noia. Mare, mare, mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Carmelo Musumeci, detenuto scrittore, per Pasqua ha scritto una lettera a Gesù. Gesù, ci sono dei giorni in cui mi sembra che i muri della mia cella mi stritoli nel cuore e ci sono dei momenti che non mi ricordo più come si vive da uomo libero. Gesù, come sono stupidi gli uomini buoni. Invece di farci fare qualcosa fuori, ci tengono chiusi nelle celle come belve feroci, senza fare nulla. Gesù, non ho mai avuto paura dei cattivi. Ci sono nato intorno a loro. Piuttosto, è da tanto tempo che i buoni mi fanno paura. Gesù, le lacrime degli uomini ombra non si vedono, perché pure quelle sono di ombra. E non è vero che sperare non costa nulla, perché una speranza andata male è più dolorosa di qualsiasi altro dolore. Gesù, se tu fossi nato di questi tempi, non ti avrebbero messo in carcere. Ti avrebbero dato l'ergastolo stativo, perché gli uomini buoni sono diventati molto più cattivi di quelli di una volta. Gesù, spero che tu non senta mai tutto il dolore degli uomini ombra, perché noi respiriamo, ma non viviamo. Ecco, in questo momento in cui si sta preparando un'amnistia mascherata per i delinquenti in cravatta, io saluto Carmelo Musumeci, come scrive Vauro, un uomo libero. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.